ringrazio tutte e tutti di essere venuti così numerosi anche questa sera. Sulle sedie troverete gli inviti per le prossime due iniziative, settimana prossima, ecco. Vi rilascio a promemoria. Ringrazio i nostri relatori di questa sera, Pinuccia Di Gesaro, Marta Stocker e Claudio Calabresi. Ecco, Pinuccia Di Gesaro è l'editrice con cui periodicamente ci incontriamo e presentiamo la sua produzione, Marta Stocker, vicepresidente della regione, e Claudio Calabrese, l'autore di questo libro. La biblioteca, come ben sapete, è una biblioteca che ha prevalentemente un interesse legato al territorio, quindi i libri che noi abbiamo, e qui ce n'è un quarto del nostro patrimonio, perché gli altri tre quarti sono dislocati da un'altra parte, non abbiamo tanto spazio in questo momento ancora, e ha come punto centrale sicuramente il nostro territorio, e quindi periodicamente quando noi facciamo le iniziative cerchiamo di avere un legame, di approfondire una tematica del nostro territorio. Questa volta ci fa particolarmente piacere poter approfondire anche la figura di Silvius Magnago, che se n'è andato appunto nel 2010, ma che ha lasciato indubbiamente un'eredità molto forte con il suo lavoro e la sua attività. E come biblioteca nel nostro piccolo siamo anche degli eredi del suo patrimonio bibliografico, perché ci è stato donato dagli eredi i libri in lingua italiana, e la parte invece che è proprio consistente chiaramente in lingua tedesca sono andati al collega alla biblioteca con cui collaboriamo e con cui condivideremo il progetto del polo bibliotecario, alla Tessman. Sul nostro sito trovate l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, ormai lo stiamo concludendo la fase di catalogazione, quindi presto saranno tutti disponibili al prestito e alla consultazione. È interessante sempre vedere il percorso di una persona anche dai libri che ha scelto, che ha ricevuto, che ha letto e in parte anche glossato, perché ci sono spesso anche delle a margine, delle sottolineature, degli interventi, degli appunti che per noi sono indicativi delle riflessioni, delle cose che potevano essere interessanti come spunto per il lettore. Non escludo che negli anni, visto che i fondi che abbiamo ricevuto finora sono oltre la dozzina, sempre di personaggi del nostro territorio, la biblioteca non inizierà proprio un percorso serio di studio delle biblioteche d'autore, con l'aiuto magari anche dei giovani che vorranno laurearsi in questo ambito. Ecco, cedo la parola a Pinuccia Di Gesaro, non prima di avere detto anche di portato i saluti del nostro assessore Cristian Tomasini. Padrone di casa. Che è il padrone di casa, sì. Ecco, grazie intanto. Bene, io ringrazio tutti, innanzitutto Marta Stocker che ha voluto, credo, onorare la figura di Silvius Magnago, e poi non vi nomino per nome perché non vorrei dimenticare nessuno. Il 25 maggio scorso, dopo 4 giorni di degenza in ospedale, si spegne Silvius Magnago. Ma non so, sentite anche senza microfono? Sì, sì, vabbè, sì. La stampa esce con paginate, si dice paginate, bellissime, documentatissime sulla vita, sull'opera dell'uomo. Ma oltre a questo si sente anche veramente da parte della popolazione, ma non soltanto per l'accoglienza, l'affluenza ai funerali, ma proprio così dai colloqui, si sente che fu un uomo molto stimato e molto amato. E si percepisce nettamente che questa morte è proprio la cesura tra quello che è stato e quello che ha rappresentato la sua vita in relazione a quello che è davanti a noi. Questo lo si percepisce leggendo tutti i giornali, dall'Alto Adige alla Dolomitna, tutti i giornali locali. Cioè è proprio un punto fermo rispetto a un passato di cui è stato protagonista, direi prima donna, mi spiace, questa volta ci sta il prima donna, e però ebbe dei comprimari. Si può dire anche protagonista? potevo dire anche protagonista, prima donna e di più, perché Magnago era... Vabbè, perché siamo il giorno dopo di domani... Di un milione, di un milione di donne, perché ebbe però dei comprimari di primissimo livello, da Moro ad Andreotti a Benedicter a livello locale, e senatore Ritz, e solo per citare i più... così, quelli che forse gli erano più vicini o quelli che ci ricordiamo più facilmente. E poi voglio non dimenticare il tessitore dei rapporti tra Magnago e il livello romano, che fu senz'altro Alcide Berloffa, che mi piace moltissimo ricordare e anche ringraziare. Allora, dicevo che con questa pubblicazione Claudio Calabrese, l'autore del libro, e io abbiamo inteso documentare come questa morte sia stata vissuta sia da coloro che ne hanno apprezzato le grandi doti di politico, di la sensibilità diplomatica, la capacità anche così di saper nei momenti di grande difficoltà. Mi viene in mente il congresso della Südtiroler Volkspartei, quando di stretta misura si approva lo statuto di autonomia, così. Cioè anche l'energia, la personalità, il carisma è la parola giusta, di quest'uomo. E anche abbiamo voluto anche documentare, attraverso le testimonianze della stampa di quei giorni, anche le voci critiche, anche coloro che non hanno condiviso o hanno avuto delle obiezioni, degli atteggiamenti critici, insomma, nei suoi confronti. Cosa vuole essere questo instant book? Vuole essere un inizio per una riflessione pacata, perché la storia, voi sapete, non si fa in maniera emotiva, non si fa in maniera immediata, occorre sedimentare i pensieri, le azioni, e, insomma, occorre che quello che è avvenuto trovi un equilibrio assieme ad una serie di altri fatti che costituiscono la storia, ma comunque vuole essere l'inizio per una riflessione di quello che è stato un periodo sicuramente importantissimo, di cui noi oggi viviamo viviamo i frutti, per molti di noi positivi, per qualcuno invece ritiene che questa situazione non sia così brillante, così favorevole come molti affermano. Sicuramente una cosa è indiscutibile: l'Alto Adige oggi, rispetto a 40 anni fa, gode di una ricchezza, di un benessere e di una... di un benessere, la parola giusta, che 40 anni fa non era forse pensabile, e sicuramente Magnago ebbe un grandissimo ruolo in questo. Io mi permetto di dire solo questo. Morto Magnago, ci furono una serie di dichiarazioni, ne prese posizione, non so, da Kohl, Fischer, la vicepresidente del Consiglio regionale, pagina 53, se non mi sbaglio, disse... Cosa ho detto? Hai detto del Consiglio? No, della Giunta, scusate, della Giunta regionale. Disse, intervistata da FF, non so se tu lo ricordi, ma io... Io ho detto tanto in quei giorni. Tu hai detto una cosa fantastica, e cioè, dunque, a pagina 59... hai detto una cosa, ecco qua, Silvius Magnago, la mia venerazione per una leggenda politica. Mi pare una frase molto scultorea. Ce la vuoi raccontare? Cosa vuol dire? molto sintetica, tu puoi articolarla forse, no? Io ti ringrazio per questa citazione. Buonasera a tutti anche da parte mia. Quando Pinuccia mi ha detto che fate la presentazione di questo libro, ho voluto veramente volentieri esserci, perché Silvius Magnago per me è senz'altro il personaggio che mi ha portato in politica. Senza Silvius Magnago forse io non sarei qua su questo tavolo e neanche avrei un ruolo politico. Io penso che forse oggi ancora di più si apprezza un personaggio come è stato Silvio Smaniago, perché è così totalmente differente da quello che noi, almeno se guardiamo i rappresentanti in ambito nazionale, innanzitutto il primo rappresentante, lui era il contrario in tutto. Aveva una morale, una etica politica talmente alta che forse oggi quasi non si comprende più, perché lui era sempre un personaggio politico che non ha lavorato per se stesso o per qualche carriera o per qualche medaglia o per qualche riconoscimento, ma era sicuro che doveva dare tutto e tutte le sue forze per la gente di questa terra. Era un po' anche una scheta. Una scelta. Asceta, scusa. No, asceta. Asceta. Asceta. Asceta, asceta, ok. Certo. Io mi ricorderò sempre quando lui ha ordinato dei panchetti, una volta forse non si diceva neanche panchetti, ma era qualche cosa da mangiare dopo un incontro importante. Lui controllava sempre se non viene speso troppo, perché non è che sono soldi miei, sono soldi della provincia, della comunità, e per quello si deve risparmiare. Lui sempre, quando lasciava una stanza, un'aula, un locale, guardava sempre se erano spente le luci. Anche Benedicta. E se non se qualcuno si dimenticava di far quello, ho detto: ma voi buttate fuori i soldi degli altri. Degli altri. Era anche uno che era molto preciso. In questo era giurista. Per lui valeva ogni parola. E io spesso mi ricordo Parteileitung o Parteiausschuss, dove lui ci diceva certe cose e avevo sempre un po' l'impressione che adesso lui prova un po' se tutto quello che lui dice è così preciso per poterlo dire anche poi ai mass media, alla Landesversammlung, cioè dove ci sono tanti che controllano molto bene cosa lui dice e se questo che lui dice è proprio quello che è precisamente quello che lui vuole dire. O un'altra cosa, mi ricordo sempre che lui ha detto cose di una certa sensibilità non si porta nel pubblico, cioè non si va subito a informare i giornali su cose che sono sensibili, dobbiamo prima trattarli all'interno, dobbiamo prima parlare di queste cose con i nostri partner nella coalizione e non parlare subito ai giornali. E questo mi sembra essere heikle Dinge löst man nicht durch Publizität. Mi ricorderò sempre sta frase, per quello forse anch'io non sono quella che subito vai ai giornali, ma prima medita un po' prima di parlare troppo. E poi devo dire che io personalmente avevo un legame molto forte anche personale con lui. Io sono stata anche 2 giorni prima che morisse nell'ospedale e avevo la grande fortuna che in quel momento, quando sono stata io con lui, che si sentiva abbastanza bene. Per dire la verità, non è stato così come qualcuno voleva raccontare, che ha parlato ancora e che si capiva quello che lui ha detto in quel momento, però erano gli occhi che hanno parlato, e io mi ricorderò sempre quei occhi in quel momento dove l'ho visto l'ultima volta. E un po' avevo l'impressione che si aspetta che noi lavoriamo un po' nel suo senso, cioè anche un po' nella sua maniera di far politica, che il suo esempio di essere un governatore un po' diverso, come è stato lui, che questo si trasmetta un po' anche al futuro. Io ho anche qualche libro di Silvio Smaniago, l'ho comprato quando hanno fatto quell'asta. L'hanno fatto alla Raiffeisen. E io ho comprato i suoi libri che erano dentro nella sua vecchia valigia. Ho comprato anche quella. Un simbolo mi sembra essere molto forte. E io ho comprato il diritto civile, un bürgerliches Gesetzbuch, e ho visto tutto quello del quale è stato parlato prima, no? Come lui si è fatto le note, come le cose che per lui erano importanti, che ha studiato bene, comunque un libro veramente non solamente letto ma lavorato, veramente lavorato. Tutti questi ricordi per me hanno un valore forse più grande che per tanti altri, perché parlando anche spesso con lui in tutti gli incontri che avevo, personali e anche politici, ho apprezzato e forse anche un po' imparato il suo modo di far politica, che era sempre quello di cercare di trovare una via giusta per la garanzia che tutti i gruppi linguistici in questa terra hanno i loro diritti e vengono rispettati in questi diritti. Logicamente lui, facendo politica in una fase dove il gruppo linguistico tedesco, il gruppo linguistico ladino aveva pochi diritti, logicamente doveva mettere innanzitutto il suo focus, no? Di far politica su quello, per garantire e per arrivare a quello che ho detto prima, cioè equilibrio tra i gruppi, che si possano tutti guardare negli occhi sulla stessa altezza. Questo, in fin dei conti, era la sua visione politica, ed è riuscito, perché possiamo senz'altro dire che è stato poi un architetto di un'autonomia dove adesso, come anche con i trentini intanto, ci possiamo sempre guardare negli occhi sulla stessa altezza, e questo vuol dire che tutti hanno la possibilità di avere i loro diritti, però anche essere rispettati in quello che sono, nella loro identità, che è sempre un'identità ancora diversa, perché ha le radici in diverse, possiamo anche dire quasi culture, perché anche vale per il gruppo linguistico italiano, non è che il gruppo linguistico italiano ha una sola cultura, si è portata qua tantissime culture che forse qua trovano un po' una unità, però comunque sono delle radici dove partono, sono sempre anche un po' differenti. Anche in questo penso che adesso pian pianino sia il gruppo linguistico tedesco che ladino capisce anche questa ricchezza culturale che hanno portato qua la gente italiana, che logicamente per un politico come Maniago era anche un problema, in quel senso che logicamente nei anni 50 lui aveva ancora da fare politica in una situazione dove si cercava ancora di aumentare questo gruppo linguistico italiano per una precisa politica voluta dallo Stato italiano, dalla capitale Roma. Però comunque lui è riuscito alla fine di costruire quell'insieme che adesso ci garantisce il reciproco rispetto e i diritti che vengono riconosciuti da tutti per sempre gli altri gruppi linguistici. Grazie Marta. Claudio, tu rappresenti. Claudio Calabrese, che ha scritto il libro, e rappresenta più la generazione che ha visto l'uscita di scena di Silvio Smaniago che non tutta la costruzione di cui parla Marta Stocker. E tuttavia hai avuto uno slancio, un interesse, una passione nel mettere insieme in pochi giorni questo libro che mi pareva, io che ti ero vicino, mi pareva che tu l'avessi addirittura conosciuto di persona, viceversa mi sembra che tu lo abbia visto quante volte? Mai. Personalmente? Mai? Mai. Personalmente. Ecco, allora quello che mi interessa che tu racconti. Voi avete visto, voi, tu e altri della tua generazione, avete assistito più che altro alla come dire, sì, l'uscita di scena, perché gli ultimi anni Magnago stava a casa, io sono andata a trovarla qualche volta e viveva una vecchiaia, è morto a 97 anni, diciamo a 100 anni, e viveva una vecchiaia molto isolata, aveva paura, mi ricordo quando era il suo compleanno che veniva festeggiato, lui aveva un grandissimo piacere, però aveva paura di disturbare, cioè praticamente non l'avete mai visto. Che cosa rappresenta per la tua generazione Magnago? Grazie, prima di tutto vorrei salutare tutti i presenti, vorrei ringraziare Pinuccia Di Gesu, ringraziare la direttrice dottoressa Trevisan per l'ospitalità e particolarmente la presidente dottoressa Stucker che a differenza di me è storica, io non sono uno storico, in formazione sono giurista e sono filosofo del diritto. Bene, ecco, forse ti serve il microfono. Accendiamo. Noi abbiamo la luce più. Mi sentite? Adesso ecco. Scusate. Ho poca voce oggi perché sono un po'. Sono un po' influenzato. Allora, chiaramente la mia visione nei confronti di Magnago o per questo personaggio è del tutto diversa che non per chi lo ha conosciuto e per chi ha vissuto tutta l'epoca inerente alla formazione del primo e soprattutto il secondo statuto di autonomia. Io non ho mai conosciuto Magnago, non l'ho mai visto. Il lavoro che qui ho fatto è sostanzialmente un lavoro compilativo di raccolta e poi di giudizio, ma un giudizio mai soggettivo, ma di analisi, nel senso che mi sono rifatto a quelli che sono i giudizi espressi da coloro che l'hanno conosciuto, da coloro che hanno vissuto assieme a Magnago, almeno da un punto di vista politico. Non mi sarei mai arrogato alcun tipo di competenza in termini di giudizio personale. Bene, perché questo libro è il tipo di libro, un instant book? Perché immediatamente dopo la morte di Silvio Smaniago ho percepito la necessità, cosa che dissi immediatamente a Pinuccia quando mi chiese di fare questo libro, di scrivere un libro in italiano, non in tedesco, perché comunque in tedesco mi pare che ci sia l'imbarazzo della scelta, e poi un libro facile, un libro comunque di lettura immediata e che dia sostanzialmente, direi, una fotografia di una situazione di quello che è stato Magnago e di cosa rappresenta il personaggio immediatamente dopo la morte. Quindi una visione globale, senza voler essere in alcun modo storico, perché non è storia. Una persona che muore, che è morto ieri, sto per dire, non è storia. A mio avviso non è storia nemmeno ciò che è successo 50 anni fa, è troppo presto per parlare di storia. Troviamo ancora documenti pertanto tutto ciò che riguarda la Seconda Guerra Mondiale è ancora presto a parlare veramente di storia contemporanea, perché troviamo ancora documenti negli archivi e dicendo, quindi gli stessi storici sono molto scettici nel definire storia tutti gli avvenimenti che riguardano la Seconda Guerra Mondiale e post Seconda Guerra Mondiale. Quindi anche lì starei attento comunque a definirlo veramente storia contemporanea, perché molte cose non sono ancora definite del tutto. Pertanto, mai poi mai, definire storia la questione Maniago, che non è ancora definitiva. Molte cose ancora potrebbero essere discusse e ridiscusse. Quindi un giudizio adesso, a mio avviso, comunque sarebbe in ogni caso avanzato. Io ho fatto un lavoro di fotografia, ho fotografato la situazione, quindi giudizi di coloro che hanno lavorato assieme a lui, che hanno costruito questa architettura politica che poi è definita il secondo statuto di autonomia, questa legge costituzionale che ci garantisce tutti, quindi i vari gruppi linguistici presenti in Alto Adige. Come giovane, io sono del 1975, posso dire che, e sono convinto che anche i miei coetanei godono dei benefici di questa legge costituzionale, che comunque è una legge che ha portato grandi benefici alle persone che vivono in questo paese. Sì, è vero, ci saranno sempre degli scontenti, ci sarà sempre, io ho insegnato 5 anni tedesco seconda lingua alle scuole italiane, ho insegnato italiano alle scuole tedesche, quindi conosco le varie difficoltà per quanto concerne l'apprendimento della seconda lingua e via dicendo, conosco tutte queste cose. Però di per sé l'autonomia è un beneficio incredibile. Ecco, proprio il fatto di riconoscere che ci sia questa autonomia, a differenza delle altre province, soprattutto delle altre regioni, in Italia, qui questa particolarità è un motivo in più che mi ha portato a fare questo libro. Bene, io se vorrei fare io una domanda alla Presidente Stucker, visto che lei è storica, oltre che un politico che ha accompagnato Maniago nelle sue varie vicende politiche. Maniago, come ha visto, dottoressa, la questione italiana, etnico-italiana in Alto Adige? Secondo lei come la vede questa cosa? Perché ancora oggi ci sono queste tensioni, ma siamo altoatesini, non siamo altoatesini, siamo tutelati, non siamo tutelati dal pacchetto, è un pacchetto solo per i due gruppi, quindi i tedeschi e i ladini, ma non anche per gli italiani, eccetera. Tanto vero che anche in questo libro io affronto anche queste problematiche, non dal mio punto di vista, ma da un punto di vista toccato da coloro che hanno anche comunque affrontato qualche critica, ha promosso qualche critica nei confronti del patriarca. Sì. Ma io penso che dobbiamo ritornare un po' allora negli anni 50. Com'era la situazione per Maniago negli anni 50, quando lui è diventato nel 56 Obmann della Südtiroler Volkspartei e poi dopo presidente della provincia autonoma di Bolzano? La situazione, adesso se parliamo del mercato di lavoro per esempio, no? Il mercato di lavoro era chiaro che il 90-95% dei dipendenti pubblici erano italiani. La situazione per quanto riguarda per esempio le case popolari, il 90% di case popolari andava agli italiani. Cioè, la situazione nella quale lui si è ritrovato come Obmann della Südtiroler Volkspartei e come presidente della provincia era logicamente innanzitutto questo Los von Trien e poi garantire un'autonomia o cercare di portare avanti un'autonomia, la richiesta di un'autonomia, diciamo, per il Sud Tirolo, con la garanzia, anche come è previsto nel trattato di Gruber De Gasperi, che la popolazione di lingua tedesca e di lingua italiana può avere questi diritti garantiti in questo trattato, cioè la percentuale della popolazione è la base, per esempio, per la proporzionale, è la base anche, in fin dei conti, per altre politiche sociali, culturali, eccetera, che prima non era garantito. Un po', se ci ricordiamo gli anni 50, era Trento che comandava, Trento con una maggioranza anche di italiani della provincia di Bolzano. La regione aveva in mano 4 volte tanti soldi che la provincia autonoma di Trento di Bolzano, però per Trento non è che faceva gran differenza, perché era la regione che comandava ed erano innanzitutto i trentini. Per quanto riguarda anche il budget della provincia di Bolzano, non era garantito che è la provincia veramente a decidere come vengono utilizzati questi soldi, ma anche lì era spesso la regione, sia la giunta che il consiglio, a fare delle leggi, a fare delle delibere come devono essere utilizzati questi soldi. Poi viene il 57, come anche prima, che da Roma si decide di finanziare di nuovo case popolari, che in quel momento volevano dire nient'altro che: noi cerchiamo di portare qua ancora altri italiani per arrivare a questa politica che è stata definita la politica del 51%, cioè era la politica chiara negli anni 50 ancora di arrivare alla maggioranza italiana in questa terra. Era questa la chiara politica del 51% che si voleva, alla quale si voleva arrivare. E lui si trovava in questa situazione, dice: noi possiamo solo far qualcosa per questa terra e anche per i giovani di questa terra, che hanno un futuro in questa terra, se chiediamo e facciamo del tutto che alla fine si arriva, come previsto nel trattato Gruber De Gasperi, a questa autonomia per il solo Sud Tirolo. E per quello, vista la situazione che era a favore del gruppo linguistico italiano, chiaramente, logicamente doveva lui in questi anni innanzitutto pensare ad arrivare a un equilibrio, e per quello lui aveva senz'altro in questa fase in mente innanzitutto il gruppo linguistico tedesco e ladino, però non per non garantire diritti all'italiano, però per arrivare a questo equilibrio. E per quello, e poi un'altra cosa ancora che mi sembra essere molto importante, quando poi dopo il 72, il secondo statuto di autonomia, le norme di attuazioni, la situazione si è un po' normalizzata, anche se ci erano tantissimi problemi. Lui era sempre anche un presidente che diceva: io ho un vicepresidente italiano ed è quello che deve essere un po' il riferimento politico per gli italiani, perché se io come presidente vado sempre anche lì, perché lui, erano rare volte che lui si presentava a una grande manifestazione italiana, perché lui rispettava anche questo ruolo del vicepresidente italiano, che dice: questo per gli italiani è il presidente, lui deve valer qualcosa. Se pensiamo ancora a figure come l'assessore vicepresidente Ferretti, no? Che era veramente il referente politico degli italiani, forse anche per quello che lui ha un po' anche rispettato questo ruolo importante per gli assessori, per il vicepresidente italiano. E poi forse lui un po' si deve capire anche dalla sua storia, no? Uno che forse anche perché si chiama Maniago, no? Doveva sempre anche forse ancora un po' di più dimostrare che lui è qua tedesco. Il rappresentante del gruppo linguistico tedesco ladino, e non troppo andare dagli italiani, perché sennò qualcuno potrebbe anche pensare che lui con un nome di Maniago forse non è proprio uno dei nostri. Anche questo potrebbe essere potrebbe influenzato un po' il suo comportamento, però comunque lui penso che aveva un rapporto molto corretto sia con i suoi assessori che anche nel rispetto dei diritti del gruppo linguistico italiano. Solo per arrivare a questo equilibrio lui doveva un po' innanzitutto vedere gli altri gruppi e cercare di arrivare a questo equilibrio che adesso abbiamo. Nel libro io affronto una tematica molto delicata, tutto ciò che riguarda i cosiddetti bombaroli. Mm-hmm. L'ho visto. Abbastanza delicato, in quanto ci sono delle... Sì, ho questa voce, mi scusi. Siete? Sì. Lo affronto da due punti di vista. C'è la posizione della consigliera Eva Klotz, che accusa Silvius Maniago di aver sottratto, ovvero occultato, le lettere dei carcerati. Però c'è anche la posizione di Seth Mitterhofer. Innerhofer, mi scusi, mi sono confuso. Mitterhofer è l'altro. Sì, l'altro, sì. Innerhofer, che invece lo assolve in un certo qual modo, dicendo che no, non è vero niente, che comunque il comportamento di Maniago, tutto sommato, fu un comportamento, non voglio proprio definirlo, ma direi accondiscendente, questo in nessun caso, in nessun modo, però comunque un atteggiamento diciamo amorevole nei confronti dei detenuti. Lei come la vede? Innanzitutto anche lì non possiamo giudicare certe cose dal adesso, cioè dobbiamo un po' sempre ritornare in quegli anni. Se pensiamo che tensione anche politica abbiamo vissuto negli anni 60, allora dire che Maniago avrebbe dovuto fare questo o quell'altro, comportarsi così o in un'altra maniera, lui in quel momento tutto quello che ha fatto era un po' sbagliato e anche un po' giusto. Comunque, per quanto riguarda le lettere, dobbiamo dire che Sepp Innerhofer dice che lui lo può comprendere adesso nel suo comportamento. Per dire la verità, in quel momento dove Maniago non subito ha pubblicato, ha dato informazione su questi trattamenti che hanno subito i detenuti, anche lui in quel momento non era molto contento. Come? Detenuti di che parte? I bombaroli. I detenuti di lingua tedesca. I terroristi arrestati. No, per me, io direi che forse cerchiamo di utilizzare un po' un lessico neutrale, no? Però comunque, per esempio, Innerhofer è stato maltrattato 6 giorni, no? Lui proprio è stato torturato veramente. Questo è inaccettabile per qualsiasi giustizia. Certo. Dobbiamo dirlo esplicitamente. Sì, sì. Non ammettiamo con nessuno che vengano torturati, qualsiasi cosa abbiano fatto. È evidente, però dirlo allora significa aumentare il disastro. Comunque, in quel no, era un po' che Maniago si è chiesto: se io adesso subito pubblico queste lettere, che effetto ha? Può essere che ha questo effetto che ben fuori non so che cosa, però può essere anche, questo era, di questo avviso era Maniago, che sono pubblicati e poi basta, nessuno si interessa di queste lettere, e lui pensava che potrebbe essere meglio averli in cassetta e dire ai politici a Roma: voi dovete sapere che noi abbiamo testimonianza di queste cose che sono successe, o voi fate del tutto che queste persone vengano trattate bene per il futuro, perché se no io li tiro. Cioè, questo è sempre anche una questione, come se fa, come se fa, cosa è giusto fare, no? Comunque lui poi, e questo dobbiamo anche dire, dopo la morte di Höfler, dopo la morte di Gostner, lui ha dato, cioè, ha dato questa lettera a Dietl, è stato lui, perché la lettera aveva Maniago, per quello sbaglia anche la Eva Klotz dicendo che Maniago non ha voluto tirare fuori questa lettera. Dopo che è successo quello, Maniago non lo poteva fare come presidente, perché anche in questo si deve essere sempre un po' attenti chi fa certe cose, perché logicamente è un'altra cosa se lo fa il presidente della provincia o se lo fa un altro assessore, in questo caso assessore regionale che era Dietl. Lui comunque questa lettera poi ha dato a Dietl, e Dietl poi dopo la morte, ecco, di Höfler e di Gostner l'ha letto anche in consiglio provinciale, per quello. E poi dobbiamo anche dire che Maniago ha chiesto un'inchiesta parlamentare. Maniago ha scritto 3 volte chiedendo che si fa chiarezza su questo. Però comunque cos'è che gli hanno risposto? La tortura è una cosa normale che fanno tutte le polizie del mondo, così gli è stato risposto. Però ecco, questo, tutte queste cose si devono sapere per capire un po' questa. Già passato. No, no, c'era un visto se lei. Sì. Vabbè, ma in 30 anni si sono succeduti diversi. Sì, certo. Comunque la situazione non era così facile come qualcheduno pensa, giudicando oggi. Oggi, e non comprendendo un po' i tempi di allora. E questo penso che si deve un po' sempre anche, di questo si deve un po' anche tener conto. Comunque io chiedo che Maniago, come presidente della SVP, presidente di questa provincia, sia comportato nel modo più giusto che si poteva fare in quel momento. Però logicamente, se a me non va bene, posso sempre criticare una certa scelta, un certo comportamento. Comunque è stato anche lui che ha mandato per esempio l'onorevole Sant anche ad Appiano, perché da Appiano abbiamo sentito tante lamentele, hanno sentito le grida dalle caserme, e hanno cercato di avere qualche testimonianza anche fuori. Comunque la gente non è che parlava tanto, cioè anche lì qualcuno non voleva dire qualcosa, voleva aver sentito niente, cioè non è così facile come qualche volta la EFA giudica le cose. E Maniago ha anche pensato a un'altra cosa, perché queste lettere li aveva anche poi il ministro degli esteri austriaco Kreisky, no? Con sé anche in questa discussione sul problema su tirolese davanti all'ONU, e anche lì si pensava, no? Che questo può aiutare per portare avanti questa richiesta di un'autonomia. Per quello io credo che lui ha fatto, si è comportato nel modo più giusto. Dobbiamo anche sapere che era Selva che ha detto, per esempio, in quell'anno nel 61 a Maniago, se si trova solo un piccolo aggancio tra il gruppo dei Bombaroli e la Südtiroler Volkspartei, si scioglie la Südtiroler Volkspartei. Anche tutte queste cose sono molto complicate, sono molto sensibili, e per quello lui non è che si poteva comportare come qualcuno oggi pensa che si avrebbe dovuto comportare. Io vi leggo 6 dichiarazioni brevissime, incisive, di Silvius Magnago, perché possono aiutarci ad aprire una piccola discussione. Allora dice Magnago: solo 2 dittatori come Mussolini e Hitler potevano inventarsi una cosa crudele come le opzioni. Sul pacchetto, credevo di non farcela. Il mio partito lo accettò nel 1969 con una maggioranza risicata. Se non ci fossi stato io, questo per dire la consapevolezza che lui aveva di se stesso, l'assemblea avrebbe bocciato quella soluzione. Qui dentro c'è il discorso che fece Magnago a quel congresso dell'SVP, interessantissimo, vibrante, meraviglioso. Se non ci fossi stato io, l'assemblea avrebbe bocciato quella soluzione. È stata dura, davvero. Poi, Supertini: il presidente italiano che mi ha più colpito è stato lui, lo stimavo molto, di fronte a un buon bicchiere di vino parlavamo di tutto. Su Cossiga: il presidente italiano più attento all'autonomia, è l'unico che ha avuto il coraggio di parlare la lingua tedesca durante una visita ufficiale, magari per dire poche battute, ma lo ha fatto, una cosa che ho molto apprezzato. Giuristi e filosofi: a Roma servivano giuristi, non filosofi. Rumor era un filosofo. In un certo senso anche Spadolini lo era. Il migliore? Aldo Moro. Aveva una grande forza. Se diceva sì, era sì. E se diceva no, era no. E poi c'è una frase interessantissima. Le bombe utili, tra virgolette. Il terrorismo degli anni 60 ha accelerato la ricerca di una soluzione diplomatica tra Italia e Austria. Su questo non ho alcun dubbio. Se volete fare delle domande. Anche se lui era proprio contro ogni violenza, no? Lui ha detto sempre che violenza sempre porta a una nuova violenza. E in questo confronto fra una minoranza e uno Stato, vince sempre lo Stato, perché ha senz'altro a disposizione più mezzi, no? E per quello lui era convinto. Ma la pace è la vittoria di tutti. Comunque, certo. Io vorrei dire una cosa. Vorrei chiedere al professore e anche alla signora, se Magnago fosse ancora vivo. Come si fa? Magnago, che era una persona molto intelligente e che ha fatto cose anche necessarie e degne di lode, farebbe cancellare il bassorilievo di Mussolini. No. No. Come si fa a leggere il piacere di un morto? Farebbe cancellare la storia o no? Quella è una vergogna, non una storia. Quella è una vergogna per Borzato, non la storia. Perché non è certo la storia italiana, perché purtroppo la provincia di Bolzano hanno conosciuto gli italiani come fascisti, ma non è così. L'Italia per fortuna è quella che ha costruito una soluzione valida per qua, aumentando il suo livello di democrazia. Bravo. E questo, per questo quel bassorilievo va storicizzato, indicando che quella è una vergogna che ha provocato altre vergogne. Pensi che qui a Bolzano quel gonfio trionfo di Mussolini ha messo un campo di concentramento dove sono passati dentro 9.500 persone, centinaia di sudtirolesi anche. Basterebbe questo per dire che quello è un goffo rudere del ridicolismo fascista. È tutto il passato, però occorre vedere il valore che possono avere queste cose e collocarlo in una scala di valori. Sì. Anche il monumento abbiamo, e io posso dire francamente che quel monumento a noi c'era stato offerto 1945 di fare pulizia, ma a Bolzano, siccome ci sono anche delle persone intelligenti, hanno deciso che a Bolzano c'era, il fascismo aveva già fatto macerie abbastanza e che quindi altre macerie non servivano. E dobbiamo ragionare così. Napolitano ieri, e con questo, le parole identiche che poteva pronunciare Bagnago, ha detto che non bisogna restare ostaggi dei disastri passati. Certo, perché bisogna guardare avanti. Io sono abbastanza vecchia per ricordarmi quando è finito il fascismo. Io ero ancora a scuola e ci davano dei testi con dove le pagine che riguardavano il fascismo erano cancellate in nero. E io, piccola come era, ho trovato questa cosa ridicolissima, veramente ridicolissima. E insomma, secondo me questo è un gesto un po' talebano di distruggere queste cose. Allora vuol dire, scusi, che gli italiani si identificano con il fascismo? Ma no! È inaccettabile. Io ad esempio posso dire una cosa. Queste cose sono successe, allora per esempio. Allora parliamo una alla volta. In Germania non c'è nulla che ricordi. Cancellare, per esempio, è anche storia. In Germania non c'è nulla che ricordi Hitler o in Russia Stalin. C'è solo Lenin. Sì, però ma Stalin non c'è. E in Germania non c'è Hitler. Anche quella è storia tragica, come quella di Mussolini in Italia, con tutti i morti. Direi che non è il caso, guardi, sono dicendo una polemica che esce dall'argomento. Allora, signora, domanda. Comunque dovrei rispondere, ecco. Esatto, no. Dovrei tornare, comunque, lei ha fatto una domanda. Le ho chiesto cosa secondo lei avrebbe pensato mai dare. Come si fa a rispondere cosa avrebbe pensato? Entrare nella testa, insomma, è assolutamente impossibile, un'ipotesi, insomma, qui ipotizzare, non mi sembra il caso che si possa ipotizzare su chi è morto sostanzialmente. Se lei chiede quello che penso io o pensa dottoressa. Mi dica allora prima quello che penso io. Allora, io mi associo a quello che dice il senatore Bertoldi, in ogni caso, perché bisogna, l'ho detto anche anni fa, storicizzare tutto. Cioè, è meraviglio che in tutti questi anni il comune, provincia e via dicendo non siano stati capaci di attaccare delle targhe. Cioè, io mi meraviglio, sono stupito, sono fondamentalmente stupito, perché la cosa sembra più elementare, no? Attaccare delle targhe esplicative per spiegare, no? Che quel monumento, il basso rilievo rappresenta questo, che le tre pietre rappresentano, insomma, il fascismo, sostanzialmente il video di Mussolini, lui dicendo, insomma, non capisco questa cosa, è assolutamente assurdo che in tutti questi anni non sia mai accaduto. Ascolta, c'è il signor Montefiori che voleva dire. Sì, il signor Montefiori che voleva dire qualcosa. Sì, io ritornerei rapidamente in argomento. Intanto saluto caldamente la dottoressa Stocker e ho avuto occasione di praticare un po' il dottor Bagnago. Io lo chiamavo all'epoca Alter Obama, lui gradiva e lo chiamavo così. E ho avuto modo di andare a far visita, sono stato per 2 anni e mezzo presidente del Consiglio provinciale di lingua italiana e una delle primissime cose che ho fatto un favore a me, perché mi sono concesso l'opportunità di parlare con Bagnago vis-à-vis. E quindi di capire, perché sicuramente era una persona, come poi si è visto, di grandissimo livello, non solo politico, ma anche intellettuale. E quindi io penso che quando si può, bisogna imparare. E devo dire che dopo le prime 2 o 3, intanto una cosa giusto per portare un qualcosa di più, come dire, terra a terra, ecco, all'autore al bravo autore del libro, e cioè qualche fatterello come quelli che ha illustrato la dottoressa Stoker, che fanno, secondo me, rendono anche il personaggio alla fine più umano. Incominciava sempre così. Intanto la prima volta mi ha chiesto se fosse andato a piedi o in macchina. Se voi conoscete un po' la città, sapete bene che dal consiglio provinciale alla sua villetta ci saranno, cosa dico, 10 minuti, forse meno, insomma, no? Io poi ho un passo un po' lento, d'alpino, quindi anche se sono stato carabiniere, ma insomma vado piano. È venuto a piedi in macchina, a piedi, ah, bene, bene. Poi mi ha parlato di altre cose, e mi ha detto, e questo l'ha ripetuto per tutte le 10 visite circa che gli ho fatto, e che per a lungo me le sono tenute per me, presidente, perché era, tra l'altro era formale in una maniera, mi confermi se è vero, formalissimo, quindi presidente, cerco di imitarlo un po', dice, ho poco tempo, mezz'ora e chiudiamo. Alle 10, a mezzogiorno e un quarto, facevo fatica ad andare via. Ma non perché fosse noioso, attenzione, ma perché forse vedeva un ascoltatore interessato e attento e gli piaceva raccontare. Poi, un'altra cosetta e poi concludo, che per esempio quando abbiamo inventato un po' l'aquila rossa della provincia, pardon, ecco, l'aquila rossa c'era, ecco, ma io come presidente del consiglio, profondamente convinto che un italiano non ha da invidiare niente a nessuno, e però se è un buon italiano cerca di imparare il più possibile da tutti, avevamo 50 milioni da spendere per far conoscere meglio il consiglio provinciale. E devo dire che nessuno prima di me aveva mai toccato quei 50 milioni, quindi ce n'avevo tanti all'epoca. E allora ho detto, come si fa? Perché avete visto stasera cosa è successo. Chiunque faccia un po' di politica in Alto Adige se ne accorge subito. È come camminare in un terreno minato. Sì, sì, sì. Fai quello che ti pare, a qualcuno va bene, a qualcuno non va bene, eccetera. Io mi sono comprato, e poi concludo, all'epoca un Sarner bellissimo, anzi me l'ha regalato mia moglie. Però vi dico, mai sarei andato, e ho sbagliato forse, ma mai sarei andato in consiglio provinciale con Sarno. Perché ha ragione la dottoressa Stoker, qui delle volte, come diceva Magnago, non andava di te. Comunque, per concludere, dico, come si può fare per fare un qualcosa di unificante? Perché, lo sapete bene, bastava, ecco qui, Biblioteca Provinciale Italiana, italienisch, eccetera. Chi scrivo prima? Quelli in italiano o in tedesco, alla fine. Non basta il bilinguismo. Vengono fuori anche queste cose pazzesche, no? Che nel resto. Allora ho detto, ci vuole un simbolo senza la parola. Ecco. Boom, quello è chiuso, ci si possono ritrovare tutti. E abbiamo pensato all'aquila rossa. Faccio una lode qui. C'è anche il trettino però. Sì, è un po' diversa. Ma se la possono sempre fare, poi il trettino c'ha la coroncina, noi no, perché noi siamo una rossa. Concludo. Mi è sembrato giusto e bello, perché devo dire che nel tempo questo mi ha veramente conquistato, anche sul piano personale. Erano già 3 volte che ci andavo, allora ho detto, e faccio una lode, scusi, e poi davvero non mi prolungo, al dottor, quello che è in consiglio provinciale, che segue le cose di... Paintner. Sì. Il quale Paintner ha detto, sì, è una bella idea, brava, eccetera, persona degnissima. Sì. Benissimo. Anche lui è uno. Un grande funzionario dell'impero, io lo definirei, perché proprio veramente. Sì, sì, Asburgo, era un altro. E allora, sì, sì. E allora ha piaciuto, ha detto, senta, telefoni lei a Magnago, siamo andati a farglielo vedere a Magnago, perché ho detto, il padre della patria, qui è lui. Chi può? Mi dispiace di non averlo filmato. Era felice, intanto per questo segno modesto ma sincero di rispetto verso la sua figura, come dire, ormai è chiaro, lui era il presidente onorario, eccetera, però sentitosi investire, poi per un'ora ci ha raccontato, sì, la vera acqua è a Innsbruck, in quella chiesa, e poi vede, presidente, quest'aquila è giovane, alpe, le piume, quindi è anche un'aquila che non si fa calpestare, eccetera, insomma, così era felice quell'uomo. E poi alla fine ha concluso questo, prendiamocelo perché è italiano in senso buono, e ha detto, beh, devo dire che solo un italiano poteva avere quest'idea così micidiale, è vero o no? Sì, io mi ricordo ancora bene. In serio, ho saputo la cosa bellissima, per esempio, e poi concludo davvero, del frigorifero. Pochi sanno, credo, che quando è iniziata la giunta con Magnago, si riunivano e non c'era niente, cioè c'erano tavole, sedie, una cosa giustamente spartana o francescana, vedete voi qual è il termine migliore. A un certo punto Boesso, che se lo ricordate era cosa, aveva un po' sete, insomma, poi c'era caldo, d'inverno tanto, ma l'estate c'era da morire dal caldo, figuriamoci se Magnago mai avrebbe messo condizionatore, a parte che lui era magrissimo. E allora io mi era stata raccontata da Boesso, però il presidente l'altro me l'ha confermato. Io ho detto, ma è vera la storia del frigorifero, io non la so bene, eccetera. Cioè, sì, perché tutti avevano sette e io ogni tanto dovevo lasciarli andare al bar. E i lavori rallentavano, quindi guai al mondo interrompere i lavori. Cioè, allora un giorno gli ho fatto una sorpresa, gli ho fatto trovare un frigo pieno di ogni ben di Dio, cioè non so, acqua minerale, ovviamente niente di alcolico, acqua minerale, bla bla bla. Ma fino lì, diciamo che ci ha fatto mettere una serratura. E lui qui, l'ho visto perché poi abbiamo fatto un pranzo, ce l'aveva, aveva una cordicella con attaccata la chiave e quando uno aveva sette gli dava la chiave, perché non si sa mai che poi in assenza qualcuno andasse lì a bersi la... è vero? E concludo davvero dicendo che io voglio bene a Magnago per un motivo, perché credo, sono stato anche a lungo ufficiale dei carabinieri, lei ha nominato di sfuggita piano, e non sa quanta ragione ha o avevano, e mi dispiace, uno è una cosa dove noi dell'arma dovremmo veramente fare come si può dire, metterci la cenere sul capo e chiedere scusa, perché davvero è successo qualcosa. So anche chi era il comandante, era un ufficiale, l'altro è morto, non era un granché di ufficiale, era ecco, diciamo che era sul genere berlusconiano quell'ufficiale lì. Giusto per capirci, e niente, però io credo, sono convinto, ho 64 anni, che se non ci fosse stato Magnago, ecco, per giocare un po' come dice lei sul sé, io credo che l'Irlanda del Nord qui avrebbe avuto qualche aspetto, diciamo che ci saremmo arrivati quasi anche noi all'Irlanda del Nord, perché sicuramente le tensioni appena alimentate, e io quindi riconosco a Magnago, forse in un certo senso, ma lo dico con un profondo amore per l'Italia, Magnago dobbiamo tenere conto di questa grande figura, forse quasi più noi italiani che i tedeschi, perché non ci sarebbe stato, i tedeschi, i sudtirolesi, chiamiamoli così, e gli altri tedeschi, che sono abbastanza fuori d'Italia, non sanno la differenza, ma noi sì. E quindi noi altoatesini dovremmo veramente avere il culto di questa persona, perché ha avuto, non tanto, ha sbagliato un po', ha fatto bene un po', e va studiato, anche a scuola, perché davvero è una persona che ha saputo portarci dove siamo qua. Scusate l'intervento, ma grazie molto. Credo che possiamo concludere. Una sola volevo ancora dire, non so come, perché lui nel formale, no? Quando era ancora presidente della provincia, con tutti noi diceva, dava il sì, anche noi logicamente a lui, e poi quando è uscito da questa carica, allora voleva da un giorno all'altro che io adesso dicessi tu e Silvius, e io non vi posso dire che fatica ho fatto, e me l'ha detto sicuramente 10 volte, ma io ti ho detto che adesso mi devi chiamare Silvius e darmi il tu. Io ho fatto una tale fatica, perché è impossibile dire a una persona così stimata come Magnago, Silvius e tu. Alla fine logicamente sono riuscita, però all'inizio era una cosa quasi impossibile per me. Bene, io credo che possiamo concludere. Un applauso per Magnago. grazie. Ringraziamo allora ancora i nostri relatori, vi ringrazio tutti e ci vediamo la prossima settimana. Grazie. Ecco, adesso vi dedico ancora il mio libro. Oh, benissimo, ecco. Grazie.